sogni aprile, ma ho calpestato l'inverno alle aiuole, ho cancellato dal mondo il confine coi miei racconti inutili, i miei sogni confusi, le passioni sfavillate. Ardori straripanti, un fiume di tormenti, i miei dissensi. Volevo dare più fiato alle foglie, un'altra mano di calma alle attese, ma ho trascinato sul carro le ore, soffiando cera su candele accese, coi miei